immancabile il venerdì, la sigla Gabriele Vasquez. Buonasera, ben arrivato, come va? Bene, bene, ben arrivato anche a te. Hai passato una buona settimana? Ottima. Beh, e questa settimana ho anche deciso di venire, ho detto ma si faccio un salto. Passo, quasi quasi passo. Allora, parleremo di cinematografo. Abbiamo saluto Raffaele, Giovanni. Quel ti sta... Giovanni, già l'ho visto, già l'ho visto. Ti sta addosso oramai, fiato sul collo. Ma senti, volevo chiederti questa cosa. Visto che prima abbiamo passato questa canzone qui, cosa ne pensavi tu di questo film? Grande. Su Facebook lo apprezzano tutti, guardalo. Ma... naturalmente, come giusto che sia, da buon critico devi averlo visto. Certo, certo. Se non sbaglio, per questo qui è il, faccio un controllo, ma dovrebbe essere il ciclo di Ciro Ippolito, cioè Ciro Ippolito che li dirigeva. Questo è il primo, se non sbaglio, è un jeans e una maglietta. Pezzo di storia della... Ma proprio perché uno dei primi non sono sicurissimo che sia già diretto. Infatti no, è diretto da Mariano Laurenti. Poi arrivano dopo quelli di Ciro Ippolito. Comunque il genere chiaramente era quello. Però sono straordinari. A modo loro sono veramente incredibili. Come sono girati? No, no, la cosa interessante... Comunque, ho saputo una cosa. C'è dire una cosa vera sullo strano di questi film, che erano già di male. Ma se non altro, rispetto al male di oggi... Io ho una notizia bomba poi. Rispetto al male di oggi, erano girati senza stile televisivo, cioè con stile cinematografico, cioè da lontano. Non ci sono molti primi piani. Solitamente sono a mezzo busto, così il massimo che vanno vicino è un primo piano neanche troppo stretto. E poi c'è un sacco di totali, perché la tradizione di questi film qua è di incastrarli tanto nella città. E quindi qui non si vedono i faraglioni, però insomma, sì, d'altre parti si vedono lo stadio solitamente, insomma, queste cose che poi paradossalmente sono più cinematografiche del brutto odierno, cioè sarebbe il brutto degli anni 70, il brutto odierno, anzi quasi 80, 82 giusto, il brutto odierno invece è più vicino alle facce. Ti do una notizia bomba, sta per uscire la versione in 3D. No. Dove dire sì, lo so, sono andato a vederlo. È un bel 3D, eh. Metti che stacco. Guarda che abbracci, che maglioni sulle spalle. C'è un film in uscita questa settimana dove tornano questi maglioni sulle spalle. Ma annodati davanti, col nodo davanti. Ne ho contati 4 in un solo film. E che film è? Il titolo. No, lo so, aspetta, guarda, lo so, ma tu sei lo drogato, so. Sei un drogato. Lo so, è che io ho questo stile di vita da rockstar britannica anni 70. Staccati dal microfono che mi stai... 10 regole per farla innamorare. Questo è italiano? Sì. Però hai fatto bene a chi fare la domanda, perché sembra un titolo da film americano, è vero, invece è un film italiano, è una commediola svelta e frizzante in cui Vincenzo Salemme fa il padre, che è un vecchio donnaiolo d'altri tempi, ora chirurgo plastico, che aiuta il figlio un po' sfigato a rimorchiare una mega gnocca che lui di cui si è innamorato, dandogli appunto le 10 regole per farla innamorare. In questo film tornano un sacco questi maglioni sulle spalle e... Ma riandasse di moda! Presto, dammi il maglione! Perché la cosa impressionante è che tornano, ma non vengono presi in giro. Cioè, solitamente magari lo vedi in un personaggio ridicolo, cioè il maglione sulle spalle. Invece no, vengono proprio. Seriamente? Sì, questo. Fosse una trovata dell'artista. Hai capito? Cioè, il bello ha il maglione sulle spalle perché è bello. E quindi esatto, gli mette in risalto le spalle. Ma. Comunque, sta per tornare Mega Upload. Ti ho dato questa notizia, la notizia che giuro non sapevo. Ed è una news così. Io potrei dartene ogni settimana, non lo faccio perché sennò poi è brutto. Sembra troppo. Capito, io vengo qua e comando. No, una ogni tanto. Questa cosa mi ha... Ti ha rischiarato la settimana, vero? No, ho già risolto in altre maniere, insomma, per dove postare i miei podcast da scaricare. Bello l'omino lavoro in corso, Chissà cosa ma è sempre il suo o... Sempre lui. È lui? Sì. Allora, diciamolo, si chiama Mega Upload. Voi direte, ma no, Mega Upload l'hanno tirato giù. Invece è Mega Upload con due E. Mega Upload. E al momento sono solo lavori in corso. Se andate sul sito c'è la classica grafica che era quella di Mega Upload e Mega Video. Stiamo lavorando ad una nuova idea di file sharing, di un nuovo concetto di file sharing. Sottoscrivete. Insomma, semplicemente annuncia che torneranno. Lui è stato scagionato un mesetto fa. Come è uscito dal carcere subito? Doveva solo premere enter. Tu dici che aveva il famoso bottoncino rosso. Esatto. Clock. Beh, sarebbe stato, o meglio, sarebbe sciocco se non avesse backuppato tutti i suoi insomma, server. Perché, diciamo che era facilmente ipotizzabile quello che, cioè, non con queste proporzioni magari, però poteva sapere che qualcosa poteva andare storto, se lo poteva immaginare, mettiamo sì, se non un piano B. Qualora non l'avesse fatto, sarebbe uno stupido che si meriterebbe. Beh, abbastanza. Veramente. Cioè, devo dire, non mi stupirebbe neanche se fosse così stupido, perché se vedi il soggetto, sì, non è che sprizzi. Sì, però non è uno che dorme da piedi. Questo no, sicuramente. Ecco, questo quindi secondo me ha una bella grotta in cemento armato nelle isole Tonga e lì ha 7-8 km di server. E lui è come sempre i ciccioni nei film in cui stanno ai tropici, hanno quei panama bianchi e sudano un sacco con giusto. Giusto. Vabbè, aspettiamo. Chissà se girando click here to see why Mega is the best file. Clicco, ma non va. Attenzione. Avessero bannato. Avessero già chiuso anche questo. Ancora non è cliccabile questa parte. Va bene. Comunque stavo dicendo che 10 regole per farle innamorare, che è una delle uscite più grosse di questa settimana. Un addirittura po' perché una delle, beh, una settimana moscia, è una settimana moscia. Un po' perché appunto è una commedia, sappiamo che insomma tendono ad andare bene, un po' perché ha un target molto giovanile, veramente indirizzato a questi giovani d'oggi. E un po' perché c'è Wilbush, che sicuramente tu non conosci perché non mastichi cose della rete. È il terzo, no, in quella fila di quattro, è il terzo. Sweet. Esatto. Sweet. E è una, quella che si definisce una web sensation, è uno che è emerso da YouTube facendo video, facendo vlog, videoblog. E è quello che ha in Italia il canale YouTube più sottoscritto in assoluto, distaccando anche di tanto il secondo, diciamo. È stato protagonista e scrittore della prima web serie italiana che ha avuto successo veramente, cioè Freaks. È insomma uno dei principali animatori del web video in Italia. È passato al cinema con già due film, però era comprimario, e questa è la prima volta che è protagonista. Ha uno stuolo di fan che non ti dico nemmeno, account Twitter saturo, pagine Facebook invase, insomma è uno che come noi più o meno, capito? Infatti abbiamo gli stessi problemi, ci confrontiamo spesso su queste cose, come gestire 800.000 commenti, capito? Cioè, queste cose così. Non deve essere una cosa semplice. No, non è semplice per nulla. E niente, quindi sono anche io curioso di vedere come andrà questo film di una persona che ha una grande fama, ma in un mondo che ha poco a che vedere col cinema o non si interseca sempre col cinema, insomma sono molto curioso. Il film in sé non è il massimo, non è divertentissimo e non mi citerò la fonte. Meglio restare su YouTube. Non lo so, cioè, diciamo che dal punto di vista del conto in banca no, perché non fa una lira su YouTube. Però diciamo sì, la roba che faceva su YouTube era più interessante, era un pochino più selvaggia. Però un altro critico che non sono io, che si chiama Federico Pedroni, perché io non mi approprio delle frasi degli altri, ha fatto una notazione molto interessante in effetti, che questa commedia qui, come altre molte commedie simili a queste di quest'ambito più o meno, hanno una caratteristica che le rende veramente inqualificabili, cioè che non fanno ridere, non hanno battute, cioè non ce le hanno proprio, non si autodefiniscono commedie, ma non ci sono, non c'è la gag. È una commedia seria. Ma sì, cioè comunque c'è una commedia anonima. È tutto sul tono del risolino, ma poi non sono improntate alla risata. Per esempio, la settimana scorsa è uscito Ti stimo fratello, che era un film comico. Non faceva ridere, ma era comico, aveva delle gag non divertenti, ma le aveva. Insomma, ci provava. Questi film invece si tengono su un'idea di sorrisetto, di situazioni simpatiche, ma non c'è mai neanche l'intenzione di voler far ridere in maniera fragorosa o comunque di avere una situazione autenticamente divertente. Cioè non c'è impegno nel divertirsi. Come l'indie inglese. Come l'indie inglese? Come l'indie, la musica indie inglese. Preferisco l'uva passa che mi dà più calorie, scrive Ale, che salutiamo, mitico, mitico. Riccardino, scusa per la battuta, ma no, assolutamente non ti devi scusare. E quindi niente, vedremo come andrà al box office. L'altra faccia del diavolo, esce questa settimana. Ho rivisto i trailer. Oh, Adesso potrei andare tosti, in sala a vederlo adesso. Ma vado, sì. Ma sai che a me questi film mi inquietano. Allora, lascia stare che pure io sono sensibile a ste cose. Questo poi in particolare questo deve essere tosto. È ambientato a Roma. Cioè questo è uno di quei film, sai, quelli che fanno finta che ti mostrano materiale vero, quindi girato con macchina a mano, che noi siamo una troupe di documentaristi, abbiamo ripreso per davvero queste cose. Però diciamo che rispetto ai molti altri che hanno fatto la stessa cosa, questo si sporca le mani, perché appunto volendo raccontare di esorcismi e di Chiesa Cattolica, perché chiaramente se fai esorcismi è anche Chiesa Cattolica, perché è l'unica a prevederli, viene qua a Roma a girare. E la cosa interessante è che c'è il classico repertorio del genere, cioè a un certo punto scoperchiano una che devono esorcizzare ed è tutta raggomitolata, terribile. Poi i versi, le cose, insomma, c'è un po' però, tutta questa cosa. Però rispetto all'Esorcista, che ancora oggi resta uno dei film, vabbè, è un caposaldo quando lo vedi. Ma sai perché? Ma sai qual è il segreto? Come quando vedi le bambine dell'albergo di Shining, cioè lo sai che tanto ci sono. E il bambino che corre nel triciclo per i corridoi, lo sai che adesso arrivano, però quando le vedi lì davanti il sangue ti si gela uguale, anche sì, se certo. Lo conosci a memoria. Ma sai qual è la cosa incredibile? Io ho avuto la fortuna di andare a un incontro con William Friedkin, il regista dell'Esorcista, che ha detto una cosa che avevo già letto, però sentita dire poi è particolare, che è impressionante sull'Esorcista. E lui dice che lui non l'ha mai considerato un film dell'orrore. Però prima che ci fossero già i grida di come di, insomma, che stai a dire, lui ha detto: io lo so che per molti lo è, cioè so che è un film che fa molta paura, però per me non lo è, perché io ci credo. E c'è stato un momento di silenzio. Come ci credo? Lui ha fatto succedere, per me è un film sul mistero della fede. Nel film vengono utilizzate l'audio del film, è l'audio di veri esorcismi. Comunque roba documentata dalla Chiesa, e lui l'ha fatto seguendo i racconti di quelli che li fanno, insomma facendolo vero per documentare cioè è finto, però per farlo esattamente come sono, sì, ho capito quello, perché lui ci credeva parecchio e ci crede tuttora parecchio, e questo probabilmente ha fatto la differenza. Se tu vai a San Giovanni, nella chiesetta quella a fianco a San Giovanni, c'è quella porticina lì, capitaci, credo sia il martedì, non vorrei sbagliare, però una volta a settimana entraci. Ah, entraci. Non so perché, ma non lo farò. Mi sei detto così. Però ho visto i trailer, mappa o. E soprattutto tosto. Insiste molto. Poi c'è quindi c'è la paura della possessione, quella classica. Ma c'è anche molto questo senso di paura incombente di questo Vaticano, che è molto ripreso. I grandi corridoi, i misteri, il fatto che non si pronuncino mai. Ci sono due preti nel film al centro, però non riescono mai a avere poi un contatto con le alte schiere della Chiesa. Hanno una paura incredibile della gerarchia ecclesiastica. E questo crea un senso di terrore che va anche oltre quello delle classiche scene di possessione. Qui scrive il tuo alter ego, Giovanni. Ho una cosa da farti vedere che non hai idea, e ti dico solo il titolo: Infernal Nuns. Magnifica presenza. Povero Will Walsh, quello di cui parlavamo. Ancora sfruttato malissimo, ma 10 cose per fare innamorare, fa veramente acqua da tutte le parti. È divertente come un fotoromanzo. Infernal Nuns, adesso ci ha dato il link e andiamo a verificare cosa diavolo sia. Tempo di aprire. Intanto in tutto questo bailam ti salutano, aspetta. Bravo. Che era qua, ti saluta Alessio che vive in Scozia, che si sta sfondando di Lagavulin in Lafroa, eccetera. Signore, abbiamo perso l'Infernal. Già riconosci la grafica. Ah, aspetta, che cos'è? Già riconosci lo stile della grafica, lo stile macetesco. Aspetta. Non fa nulla. The year 1490. Aia. Innocentius VIII is doomed to die. E non succedono cose belle, Miss Dr. Snabel, Sister Marie Claire. Yes. Pope Innocentius. Siamo in chiesa. Sir Blake. An innocent nun. How can I help? Ready to sacrifice everything. You have something that could heal him. Your holy milk. Ma. for the Holy Father will be her downfall. Beh, non si capisce in realtà cosa sia. Un esorcismo anche qui. No, è la vendetta, che è un classico di questi film. Sisters, are you ready to fight? Marie Clara is preparing for war. I'm coming to get you. Infernal nuns. A convent prepares for war. Adesso ho capito tutto. Nuns in rebellion. Infernal nuns. Everyone. White nuns. It's insane. Black nuns. Asian nuns. And even fat nuns. Holy nuns are striking back. Infernal nuns. In the name of the Father, the Son, and Mary Claire. Infernal nuns. God forgive. Mary Claire doesn't. Infernal Nuns. L'ha detto in italiano, eh? Sì. Che raffinatezza, eh? Bella, bella cosa, bella, grazie. Straordinariamente fatto male. Tu? Ne sai nulla di questo film? Film? Di questo, di questo capolavoro? Forte, la parola forte. Vabbè. Glissi, quindi. Ma allora, parlavamo d'altro, no? Sei una glissina. Sì, parliamo d'altro, prego. Ma parlavamo d'altro. Un altro titolo citato anche da Giovanni in uscita questa settimana è Magnifica Presenza, che è il nuovo film di Ferzan Özpetek. Sicuramente un regista che, conoscendo, tu conosci benissimo, cioè di cui conosci l'opera Omnia, sicuramente. Tutto. Ferzan Özpetek è il regista italo-turco che ha fatto le Fate Ignoranti, Saturno Contro, Cuore Sacro. È, diciamo, l'unico oggi in Italia a fare a realizzare film in cui ci sono storie di omosessuali che inseriti nella società, insomma, storie in cui l'omosessualità non è il centro del film ma è una caratteristica dei personaggi, perché chiaramente lui è un regista omosessuale e si batte molto per questa serie per i diritti dei gay, e questa chiaramente è solo una caratteristica, non è il centro dei film, specialmente non è il centro di questo film, in cui c'è Elio Germano che sostanzialmente affitta una casa nella quale trova dei fantasmi, però non è un film dell'orrore. Queste sono delle presenze, sono Margherita Bui, Beppe Fiorello, Vittoria Puccini, che sono una compagnia teatrale morta negli anni 40, e poi nel corso del film si scopre che c'è anche qualcosa di legato al fascismo, cioè sono morti nel 43. E non è una novità questa per Özpetek, perché già in La Finestra di Fronte si affrontavano grande si affrontavano le eredità lunghi. C'era Giovanna Mezzogiorno, c'era, si affrontavano le arrivava sempre tardi. No, oggi ho bevuto, siccome ho preso un Aperol prima ancora. Che professionista. E poi dice a me. Insomma, si affrontavano le eredità contemporanee di quello che è successo durante il fascismo, e qui pure ricapita. Questo però è fatto molto più su un tono di commedia, benché anche questo faccia ridere ben poco, però diciamo che il tono è più leggero, e anche questo secondo me è un film sostanzialmente poco riuscito. Tanto voglio salutare Barbara e Ada, buonasera, ben trovate, ben ritrovate, mi fa molto piacere. Ave Faster, chiedi a Vasquez cosa ne pensa del cambio di guida al Festival di Roma, un parere tecnico e politico se possibile, grazie Ale. Allora, precisiamo una cosa, io adesso do un parere, però precisiamo una cosa. Ecco, okay. Non fare precisazioni. No, è perché è importante, può essere importante. Precisiamo che io sono stipendiato dal Festival di Roma, sono un dipendente. No, questo è importante. E comunque... Siamo contenti di dare il benvenuto al nuovo grande direttore. Ma che un uomo straordinario. Ma che lecca noi tutti che vogliamo sei, benissimo. Ma piantala. Allora, no, diciamo ma una cosa. Piantala. Sono il meglio al nuovo direttore. Allora, diciamo una cosa, a prescindere dal fatto che sono un dipendente, onestamente penso che sia un cambio per il meglio, nel senso che poche persone possono, secondo me, contraddire. Ma penso allora, in pochi possono contraddirmi se dico che Marco Müller è uno, forse il più grande direttore di festival del mondo. Cioè, comunque è uno che in 8 anni di lavoro al Festival di Venezia l'ha rimesso in piedi, l'ha ritirato su. Poi non è un uomo perfetto, è un uomo come tutti noi. Tutti possono sbagliare. È un uomo come tutti noi. È fallibile. No, però veramente io. Grande stima e fiducia. Mettiamola così. Di certo sono contento che si sia cambiato, che abbiamo cambiato. Ah, questo lo possiamo vedi, pesce in barile, vai. Esatto. Forte coi potenti. No, sono contento che c'è stato un cambio. Non nego il fatto che comunque l'avvicendamento è stato lungo, cioè è voluto molto tempo, c'è stata una diatriba politica dietro questa assegnazione che è stata veramente abbastanza ridicola. Ma che cosa c'entra l'arte con la politica? Lo so, è una cosa che non capisco. Il problema di questo festival è che i politici, dal punto di vista artistico, cioè, ai politici dovrebbero fare, i politici fare politica eccetera, di arte non capiscono nulla. Musicalmente, teatro, cinema, sono delle, il problema è che questo sono festival degli incompetenti, quindi perché? Perché questo festival nasce molto nasce fondato da un politico, per cui la politica gli nasce già dentro, è molto finanziato da comune e regione, e come mi hanno che detto che vuol dire? Aspetta, non vuol dire nulla. No, è chiaro che poi no, questo è chiaro che questo non dovrebbe giustificare nulla. Cioè, tu questo finanzi, è solo, basta. Certo, questo è chiarissimo. È solo, se è, no, è non solo, finanzi, diciamo, fa, è solo la motivazione per la quale potrei farlo io. È solo magari la motivazione per la quale avviene tutto questo. Però è chiaro che non lo giustifica assolutamente. Ma io parlo in generale, come va l'Italia. Non è il caso di questo festival, che è un festival incredibile, carità, straordinario, bellissimo. Però parlo della televisione, della Rai. Voglio dire, no. Allora, posso dire una cosa, però, giustamente, una capiscono persona, una minchia, ma perché devono. Non quelli del nostro festival. No. No, però devo dire, no, parlo in generale, no, non capiscono nulla. È come se io dovessi andare a riparare, che ne so, la testata di una 128. Non lo so fare. Cioè, ma io sono politico. Degli oggettivi problemi. Sono un politico, lo faccio, non lo posso fare, anche se fossi un politico. Guarda, c'è un bicchiere mezzo pieno in tutto questo. E nel dirlo cito una persona interna al festival di cui non cito il nome per ovvie ragioni, però insomma, che però è persone che ci lavorano dentro, che mi ha detto questa cosa che non è stupida, è che sì, è deprimente da un certo punto di vista che ci siano queste ingerenze, è chiaramente deprimente, però dall'altro noi che ci lavoriamo non possiamo non essere contenti di vedere che l'amministrazione politica comunale e regionale si interessa così tanto a una manifestazione culturale. Cioè, comunque, ma se ne interessasse, ne dimostra se non altro, è per vedere il bicchiere mezzo pieno, non è per dire, sì. Però se non altro ne dimostra la centralità, vuol dire che è una cosa importante, questo se non altro. Benissimo, bravo, ma non mettesse bocca sull'arte. Certo, certo. Che c'entra? Adesso, con tutto il rispetto di presidente della provincia, regione, comune, mettiamo tutti dentro, no? Il famoso calderone, cioè di cinema. No. Ma che cacchio ne sai? Io spero che Müller, che è uno che invece ci capisce molto, come se la Polverini facesse un festival di musica, cioè pensa agli invitati. Sì, vabbè, a parte quello, però adesso al di là dello schieramento politico, no, cioè, ma che ne sai? Certo, non è il campo loro, decisamente. Cioè, invito, che ne so, i Suffocation, invito Mars Volta. Non sai? A caso molti dei problemi in questo avvicendarsi, nell'arrivo di Müller, sono stati dovuti alle decisioni sbagliate prese prima. Cioè il fatto che presidente e direttore artistico erano mandati che scadevano in momenti diversi. Il presidente di prima era stato scelto malissimo era stato scelto, con motivazioni terribili, e ha causato una serie di problemi pazzeschi che non potevano stare in centro. Ma chi era questo direttore? Rondi era. Ah, Sciarpetta. Gianluigi, quello a sciarpa. Forte. Adesso, che farà adesso che non è più? Ha solo altre 8 cariche adesso gli rimangono. Che farà? Sì? Sì, presidente della SIAE, lo sai? Giuro. Ma veramente? Sì, sì. Cioè, già quando era presidente del Festival di Roma, anche. Cioè, presidente e comunque, della SIAE? Ed è presidente anche dell'ente che consegna ai David di Donatello i premi principali del cinema italiano. Per dire, tra le tante, E insomma, ed è stato uno dei principali problemi che hanno allungato queste nomine. Però, insomma, adesso. Cioè, scalzarlo era difficile. Che miseria. Era imbullonato. Mamma mia. Ha dimostrato a tutti che non arrivi a 90 anni in questo settore senza scorza. Se non conosci gente giusta al momento. Comunque, giusto, adesso ci sono gli uomini migliori che potevamo chiedere. Sì, ma chiedere. Non strillare, allontana quel microfono. È l'entusiasmo per la nuova direzione. Mi saturi. Vabbè, parliamo di cinematografo, vai. Ma parliamo di cinematografo. Questa settimana è una settimana moscia, praticamente non esce altro, escono altri piccoli filmetti che è roba da nulla. Giuro, è roba che non è stata per dire neanche proiettata alla stampa, c'è proprio niente. esce, guarda, se siete dei perversi e amate queste cose, esce sicuramente in pochissime sale. Io ne sono contento che esca in poche sale, perché secondo me è veramente pessimo, però c'è chi piace. Scossa. Scossa è un film sul terremoto che 100 anni fa si abbatté sullo stretto di Messina, quindi Messina e Reggio Calabria. È realizzato da 4 ottuagenari, da 4 grandi vecchi, alcuni neanche troppo grandi, da 4 vecchi del cinema italiano, cioè un film episodio di Francesco Maselli, Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti e Nino Russo. È passato al Festival di Venezia, io lo vidi là, a me non è piaciuto per nulla, ed è quello che vi immaginate, cioè cinema vecchio stampo, mal aggiornato, fatto senza voglia. Insomma, è un brutto film, però so che queste cose poi incontrano, quindi se volete esce Scossa, buona fortuna. Ma vediamo il box office di questa settimana. Ma prego. Al primo posto, Posti in piedi in paradiso. Secondo posto, Quasi amici. Terzo posto, John Carter. Quarto posto, Ti stimo fratello. No, ma non ci posso credere. Però ha fatto poco, rispetto a quello un che milione. Poteva andare molto peggio. Lo sappiamo bene che poteva andare molto peggio. Safe House, poi al quinto, sesto posto, Viaggio nell'isola misteriosa. 7 The Double, In Time. Insomma, poca roba. No, c'è da dire che Quasi amici, che non sembra dai numeri magari, però sta facendo una grandissima prestazione, perché sta uscendo in molte poche sale. Hanno fatto una strategia di distribuzione molto accorta, non hanno speso eccessivamente nei primi weekend. Il passaparola sta funzionando, ormai sono tipo 3 settimane che è al secondo posto, sta andando molto bene, anche durante questa settimana è andato bene. Diciamo che la media per sale, cioè se dividete l'incasso del film per il numero di sale in cui sta, quindi hai l'incasso per ogni sala, il relativo, ha fatto quasi quanto Verdone, che insomma in Verdone in Italia è una vera potenza, e questo film è andato abbastanza bene, non 6 milioni, sì, certo, ha fatto anche di meglio, ma insomma questo è andato bene. E Quasi amici ha fatto praticamente la stessa media per sala di Verdone, il che vuol dire che è veramente un grande successo, considerando che è un film francese. Poi Vero, la terra è piaciuto molto, è vero, è vero. Hai per caso visto anche Verdone poi? No, Verdone non ci tengo, sinceramente. Non ci tieni? No. Però già, se mai ti è piaciuto Verdone, questo è tra i più divertenti. Sì, ma gli ultimi mi hanno sempre messo una gran tristezza. T'ha detto proprio... guarda che questo è meglio. Lo so, però... T'ho detto che a me... Te l'hai visto invece? No, non ho fatto in tempo. Se sei arrivato ti avevano già finito i biglietti. Ma questo Ghost Rider? Settimana prossima, ci devo ancora vederlo, eh. No. Sì, è diretto dai registi di Crank, eh. E quindi un bel film. Si prevede una bella coattata. Sì. No, io già ho visto delle featurette, dei trailer, delle cose. Anche io, sta catena. Esatto, sono stati particolarmente coatti. Non lo si vantavano di questo nelle cose. Sì. Dicevo, guarda, ce l'abbiamo messa tutto, ci sono delle sborate incredibili, veramente. Così. Ma film bomba non ne escono, però, eh? No, perché è un periodo un po' così, un po' moscio. Diciamo che il prossimo uscirà tra 2 settimane il nuovo film di Valenzina, che non sarà una grande uscita. Uscirà un film italiano importante, che è Il romanzo di una strage, sempre tra 2 settimane, e esce anche Furia dei Titani. Che e poi The Avengers finalmente. Esatto, poi finalmente. Si spiana la strada a un certo punto per The Avengers. Ma tra un po', adesso devo dire, ammetto che mi sono dimenticato la data d'uscita, ma è un paio di mesi o forse anche meno, esce un film terribile. Un film, ti vorrei far vedere la locandina, ma non mi... Tu intanto metti questo trailer, io cerco. Metto il trailer, sembra facile. Cerco la locandina di questo film terribile che uscirà. Poi ti dico anche da chi è diretta, proprio una cosa. La guerra è cominciata e le nostre forze militari sono insufficienti. Qui c'è del dubstep su questi effetti speciali, attenzione. Una missione, signore. Vuole reinserirmi nel mondo. Voglio salvarlo. Dottore, abbiamo bisogno di lei. E se io dicessi di no? La convincerò. Cosa mi sta chiedendo di fare? Era conosciuto come il progetto Vendicatori. Pensavo di non essere idoneo. A quanto pare sono, come diceva, instabile, egoista e non ho un buon rapporto con gli altri. Hanno bisogno di una pausa. Devi essere molto disperato per rivolgerti a delle creature smarrite per difenderti. Grazie a te se sono molto disperato. Non siamo una squadra, ma una bomba pronta ad esplodere. No! Ci sono tutti, c'è Thor, Hulk, Capitan America. Manca solo Felix. Super Pippo anche c'è. E Macchia Nera. Mi sembra di aver intravisto Black Macigno. Prego. Niente, qui arranca Google e non riesco a recuperare il titolo di questo film. Vabbè, che facciamo? Andiamo avanti perché siamo quasi in chiusura. Insomma, è un, 52, è un film di quelli veramente, è veramente un cinepanettone estivo che sarà affidato a Claudio Fragasso, che molti ricorderanno per essere il regista di quello che in America considerano il più brutto film di sempre, che è Troll 2, che è uno di quei film italiani anni 70-80 di genere, ma fatti veramente male. Ed è un film talmente vecchio stampo e talmente pieno di vecchie glorie di questo Operazione Vacanze si chiama, eccolo, Operazione Vacanze, con Jerry Calà, Enzo Salvi, Ceccherini, Mattioli, c'è veramente il peggio del peggio, e addirittura a fare la bellona c'è Valeria Marini ancora. Cioè è una cosa, Valeria Marini è una mia ascoltatrice, quindi attenzione a ciò che dici. Guarda, veramente Lo so, parenta prima, no? Ieri ho visto un capolavoro di Dino Croc va Super Gato, consigliatissimo, saluto dei ragazzi Jarren. Che è sto film? Non mi vedere, ma Dino Croc va versus Super Gator. No, è Bua, quello, no, è secondo me è un errore, sta per versus, che sennò non si spiega. E comunque no, posso vantarmi di non conoscerlo. Non prendere in giro gli ascoltatori, che sono la nostra spina dorsale. E grazie a loro che. No, io esprimevo un parere personale. Prince, volevo fare una domanda a Gabriele, non so se può rispondermi, ma volevo probabilmente sapere no. Sul fatto se sia o meno sensato comprare ancora DVD. Grazie, Fra. DVD veramente poco sensato, perché si va verso l'alta definizione. Cioè, il problema dei televisori ad alta definizione è che la bassa definizione, cioè quella dei DVD, si vede male. Si potrebbe discutere se sia sensato o meno comprare Blu-ray, che hanno tutto un altro costo. Io ti potrei dire che che il Blu-ray ha un valore perché è un affare materiale, cioè è una cosa che tieni in libreria, è fatto in una certa maniera, hai il librettino, non lo so, è qualcosa che si carica anche di valori affettivi e secondo me ha un senso. Parli del DVD? DVD, Blu-ray, insomma dell'oggetto fisico. Però chiaramente il sistema migliore per veicolare queste cose, e gradualmente ci stiamo arrivando, insomma non è una cosa che è alle porte, è che te li scarichi da internet a pagamento, che ti arrivino sul, cioè una cosa comoda, che ti arrivino sul televisore, che li vedi in alta definizione, insomma è questione di pochi anni e arriviamo là. Io penso che quello che sta succedendo più o meno nella musica, anche lì lentamente, cioè che da un lato hai gli MP3, cioè musica in bassa qualità, prezzo basso e via. Beh, insomma, sì, musica no, bassa qualità, prezzo alto. Sì, per la qualità che ha è prezzo alto, però diciamo che è più basso del CD, sostanzialmente. Beh, no, costa quasi. Io abbiamo fatto delle verifiche. Beh, un album, quando eravamo di là. Anche 7,99 è un album. No, le nuove uscite costano quasi, se non addirittura di più, dei CD. Però fisici. Diciamo che da quando c'è il formato in materiale a minor qualità, poi è molto tornato invece il vinile. Cioè, si creano, no, questi due estremi. Quando hai una cosa più volatile, c'è anche un pochino più il bisogno di quella materiale più seria. Che magari non è che ti compri tutto quello che hai in MP3, te lo compri in vinile, perché non è che. No. Ma alcune cose. E io penso che anche chi non è un malato di cinema, magari ci sono quei 3-4 film della sua vita che ci tiene praticamente. Cioè, io questo voglio avere il Blu-ray, voglio tutto, i controlli speciali, l'edizione seria, e sono disposto a spendere una certa cifra. Ma magari per il film che affitti o per un filmetto così, te lo puoi scaricare a pagamento. ci sono, che okay, iTunes che affitta adesso, no? Ci sta iTunes, che ha un gran bel catalogo che si è arricchito anche di roba italiana, insomma funziona bene, anzi diciamo a costi pazzeschi, ha però un bel catalogo. Beh, 3-4 euro in alta definizione, 3 euro in bassa definizione, e il problema è che ha veramente ancora un'esperienza, cioè il modo in cui li scarichi è lento, cioè tu devi prima scaricarlo tutto e poi vederlo, e ci vuole un sacco a scaricarlo tutto, è una cosa molto scomoda, veramente è il vero negativo. Dovrebbero parlare con quelli di Mega Upload. Due consigli, due, gliene darebbero, sì. E però anche il portale del cinema italiano dovrebbe andare online, lo so, lo dicono da anni questa cosa, che siamo tutti appesi, che dovrebbero fare un portale ufficiale del cinema italiano, dovrebbe essere fatto per bene, chi lo sa. Se avete una PlayStation 3 che è già collegata al televisore, questo è comodo, anche da lì si possono scaricare film agli stessi prezzi sostanzialmente, e hanno un catalogo un po' inferiore a iTunes, però le ultime uscite. La cosa che io non condivido assolutamente è il monopolio. E questa è la cosa che non riesco a digerire, a mandare. Beh, però per esempio sia la PlayStation che la Xbox, che sono, appartengono a un'altra categoria, cioè categoria oggetti attaccati al televisore, sono sempre monopolio, sono sempre vincolati a qualcosa. Cioè, iTunes è iTunes. Sì, però diciamo che iTunes è iTunes. Poi c'è la PlayStation che è un altro. Sono in tre, quantomeno. In tre più o meno quattro. Vabbè. È chiaro che iTunes è il più grosso. Questo è chiaro. Però si è anche mosso meglio. Cioè, un minimo se lo merita anche. Io credo che con la fine del CD a dicembre, oramai ci siamo. Speriamo che liberalizzino il mercato. Mm-hmm. Perlomeno parlo dei file liquidi, naturalmente. Speriamo liberalizzino il mercato e permettano finalmente di acquistare file ad alta qualità, cosa che qui in Italia non. Cioè, in Italia non puoi acquistare file ad alta qualità audio, parlo di certo, brani musicali, che ne so, su siti americani, inglesi, non puoi farlo. Certo, certo, ci vuole una carta di credito americana per farlo. No, neanche, se scarichi da qua te la blocco uguale. Ah, ok. Da quello che abbiamo provato, non ce la fai. C'è un unico sito, come dicevo, credo, ho già detto qualche altra volta anche qui, c'è un unico sito da dove puoi scaricare file master originali dei CD in alta qualità 24 bit e compagnia bella, ma insomma dovrebbero liberalizzarlo il mercato, in modo che poi, cioè, uno non è obbligato a comprare forza da iTunes. Voglio, certo, comprare, certo, in America perché costa che ne so, mezzo dollaro. Sì, no, il problema è che ogni stato ha le sue tariffe, è stato il suo tipo di tassazione, quello è quello che diciamo che blocca, tant'è che per esempio esiste in America Spotify, che è una cosa tipo iTunes, solamente che non si paga, è legale, è gratuito e puoi sentirti la musica attraverso i vostri device, non si paga perché hanno un modello di business, è fatto da quelli di Napster, da Sean Fanning e Sean Parker, e però non riescono, ancora non è arrivato in Italia, è arrivato in Inghilterra e in Germania, ma in Italia no, perché sono questioni di diritti, legali ai diritti, e devi concordarlo con tutte le case, con tutte le major, e quello chiaramente sostanzialmente è il grande imbuto. È il monopolio. Sì, certo, c'è poco da fare. Certo. Va bene, ce ne andiamo perché i reghisti ci stanno alle costole oramai. Grazie davvero a tutte e a tutti i Vasquez. Noi ci vediamo la prossima settimana. Senz'altro. Che giornata? Qual è il sito, sì, dove scarichi master? È Lin, il sito della Lin Records. E lì puoi scaricare master file in alta qualità, e sono, devo dire, non c'è una grandissima scelta, sono cose di nicchia, c'è molta musica classica, molto jazz, però scarichi file, e se hai un bel convertitore veramente mette in crisi il vinile, credimi, e te lo dice uno che hai pianto quando hai visto che metteva, esatto, in crisi il vinile, esatto. Io con un convertitore da 140 euro sono rimasto a bocca aperta. Però comunque ricordiamolo, però il vinile ha un altro sapore, per sentire, c'è poco da per fare, sentire quella differenza che tu senti, serve anche una certa strumentazione.